Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A voi tutti cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, un affettuosissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio, la prima domenica di aprile. Sì, chissà, il tempo che la prima corre. Sì, non si arresta un'ora, questa è. Vabbè. Allora, a te allora, la parola. Noi diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo, come sempre, la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Un cordiale saluto naturalmente al nostro regista e al nostro coordinatore. E io volevo salutare anche tutti, perché gli ascoltatori li abbiamo salutati, ma i nostri ospiti che fino a qui ci hanno accompagnato nelle trasmissioni, un carissimo saluto. E vorrei salutare così particolarmente il signor Cocchetto. Ecco. Icona della cultura. Sì, che è un'icona veramente della cultura. Benissimo, tu devi salutare qualcuno? Ma nessuno in particolare, tutti naturalmente. E tutti, va bene, esatto. D'accordo. Allora, stasera abbiamo una ospite virtuale, un ospite che non abbiamo mai sentito, è la signora Lidia Busetti e ci parlerà della storia degli ebrei e del cimitero ebraico di Conegliano. Ma adesso il nostro Antonio leggerà il curriculum, poi ascolteremo la prima canzone e avremo poi al telefono la signora Lidia. A te Antonio. Allora, la nostra ospite è nata e risiede a Farra di Soligo, è sposata con Bruno e ha due figlie, Deborah e Giulia, laureate a Padova, la prima in lettere moderne e la seconda in matematica, e un nipotino, Diego, di 3 anni. Da molti anni è contitolare col marito di un'agenzia di assicurazioni. Dopo aver ripreso gli studi interrotti in giovane età, si è prima diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale Marco Fanno di Conegliano nel 2005 e poi laureata nel 2009 a Ca' Foscari in Lingue e Culture dell'Eurasia e del Mediterraneo con il relatore il professor Giuliano Tamani, con votazione di 110 e lode. Bravissima. Il titolo della tesi, io non conosco l'ebraico, però provo a dirlo, Betha Chaim, lapidi dei cimiteri ebraici di Conegliano e Vittorio Veneto. 4 delle sue traduzioni, tratte dalla tesi di laurea, sono state pubblicate nel 2012 nel libro della professoressa Marisa Zanussi intitolato Conegliano e gli ebrei. Benissimo. Allora adesso ci ascoltiamo la prima canzone e poi avremo al telefono la signora Lidia. La prima canzone è cantata da Frank Sinatra e si intitola New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York, New York. never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Ecco, come annunciato, avremo al telefono la signora Lidia Busetti. Pronto? Buongiorno. Buonasera, signora Lidia. Buonasera. E shalom, è il caso, mi pare di dire. Shalom aleichem, non so se sia pronunciato correttamente. Perfetto, shalom, veramente perfetto. Questo è il mio partner che si chiama Antonio. Eccomi qua. Piacere. Ecco. Piacere nostro. Allora, signora Lidia. Grazie naturalmente di questo vostro invito. Grazie a lei di aver accettato. Noi abbiamo già letto il suo curriculum. E adesso diamo la parola a lei per parlarci di questi ebrei che hanno il cimitero anche a Conegliano. Sì, allora inizio subito facendo un po' il riassunto di quello che è la presenza degli ebrei a Conegliano, per poi entrare successivamente nell'argomento che io definisco l'anima della mia tesi, cioè proprio il cimitero con le pietre sepolcrali. Inizio perciò col dire che è stata la favorevole situazione geografica di Conegliano fin dai secoli più antichi a farne una città mercantile di grande importanza, e per questo la presenza di feneratori, ossia di prestatori di denaro, cioè banchieri, coloro che tenevano banco, è documentata fin dal secolo XIII. Infatti troviamo a Conegliano, fin dalla fine del 200, alcuni feneratori toscani e a quanto pare anche molto esosi. E poi alla fine del 300 cominciano ad essere documentati i banchieri ebrei. Il primo ebreo di cui si ha notizia è un certo Michele, e questa presenza di banchieri è documentata fino praticamente alla chiusura del banco nel 1548. Diciamo che l'attività di banco venne proibita come conseguenza dell'istituzione dei monti di pietà. Ah sì. Sì. A tale proposito va detto che tale istituzione fu voluta e promossa fin dal 400 da Bernardino da Feltre, è uno dei nomi che ricorre in questi argomenti, ed egli predicava contro gli ebrei in quanto colpevoli di esercitare l'usura, e va detto però che era questa una delle poche attività consentite agli ebrei insieme alla strazzeria, ovvero il commercio di stracci usati. E anche perché l'attività di prestito era proibita ai cristiani. Eccolo qui, esatto. Esatto, e questa crociata antifeneratizia, promossa appunto da questo ordine francescano dei frati minori osservanti, forse anche in causa di un aumentato odio popolare nei confronti degli ebrei, portò comunque alla fondazione dei Monti di Pietà, che all'inizio dovevano essere dei banchi che mettevano a disposizione dei bisognosi dei soldi, denaro, senza la richiesta poi di interessi, ma in realtà non fu così perché non riuscivano in ogni caso a stare in piedi da soli. Comunque negli ultimi 20 anni del 400 nei territori della Serenissima ne vennero aperti ben 10. E anche a Conegliano alla fine del 400 venne autorizzata la costituzione di un monte di pietà, che però diciamo fu fondata agli inizi del 500 in realtà, e fu ubicata in Contrada Grande, che è l'odierna 20 settembre. Ma non era gestita da ebrei? No, era gestita dai cristiani, sì, sì. Dal consiglio cittadino di Conegliano in questo caso, sì. Era proprio la prima banca cristiana, per quello che dicevo che non dovevano esserci. In teoria l'idea era che non doveva essere un prestito su previo pagamento poi di un interesse. Esatto. E invece per una questione proprio economica anche questi monti di pietà chiedevano dei tassi che erano comunque molto più bassi di quelli del vampiro ebreo. Immaginabile, immaginabile, sì. Diciamo che in quel periodo si parla di un 7-7,5% per i monti di pietà contro un 20% dei banchieri ebrei. Tuttavia va detto che quest'ultimo, cioè il banchiere ebreo, spesso continuò a essere preferito per vari motivi, cioè intanto gli ebrei avevano una maggiore liquidità ed elasticità nel dare questi prestiti, poi c'era anche una maggiore valutazione dei beni che venivano dati in pegno e un'ultima ma non meno importante, oggi si parlerebbe di privacy, cioè per un motivo di segretezza, perché non erano solo i poveracci, i contadini umili che andavano a chiedere magari questi prestiti, ma a volte erano gli stessi nobili che, trovandosi momentaneamente in una difficoltà economica, chiedevano un prestito e ovviamente, cioè, preferivano farlo di nascosto, ecco, dalla collettività. Sì, perché sarebbe stato un po'... Sì, ecco, non era molto... cosa dirà la gente? Esatto. Quindi, e poi, ecco, un'altra cosa, dicevo che il Monte di Pietà Conegliano fu fondato ai primi del Cinquecento e per alcuni anni, appunto, vide la coesistenza con il banco di pegno ebraico, anche perché la condotta al banchiere ebreo non era ancora scaduta. In pratica, l'ultima condotta, poi magari dirò di più di queste condotte, che sono poi i patti erano degli accordi che venivano stipulati tra il feneratore e il consiglio cittadino, e queste condotte regolavano la vita e l'attività dei banchieri ebrei in città, ecco, diciamo così. Ma ce n'erano parecchi banchieri ebrei? Allora, diciamo che di solito era uno o una famiglia, una famiglia di banchieri, però la comunità, diciamo, di Conegliano raggiunse un notevole anche numero come abitanti ebrei. Sì, poi sì. Non tutti ovviamente facevano i banchieri. Ma certo, ecco. Sì, sì. Di solito, ecco, i documenti riportano sempre il nome di un banchiere, che poteva essere Simone, poteva essere un certo Mandolino, oppure Michele, come avevo nominato prima. Sì, il primo, ecco. Sì, sì. E, sì, in genere era la famiglia che arrivava, perché, ecco, c'è da dire questo, che gli ebrei furono accolti a Conegliano proprio perché la loro attività di banchieri era considerata necessaria per far fronte alla drammatica situazione economica in cui si trovava gran parte della popolazione. E quindi, cioè, ovviamente a seconda del periodo e delle esigenze poteva esserci anche più di un banchiere. E queste, diciamo, l'ultima condotta ebbe come scadenza gli inizi, diciamo, del Cinquecento, e dal 1548 gli ebrei non poterono più esercitare l'attività di banco. E dopo però la chiusura del banco locale, gli ebrei coneglianesi divennero feneratori in altri feudi, perché noi abbiamo ad esempio un documento in cui si dice che a Ceneda, in un momento di grave crisi economica, fu il vescovo Marcantonio Mocenigo, sì, alla fine del Cinquecento e precisamente nel 1597, e fu questo vescovo ad invitare Israel ebreo da Conegliano a trasferirsi nella sua città per tenervi banco. Bene, Lidia, ci fermiamo, sì, un attimo, così lei riposa e noi ci ascoltiamo una canzone. Perfetto. Bene. Grazie. Ecco, allora ci ascolteremo Ragazza di periferia, cantata da Anna Tatangelo. Sei andato via da un po', hai deciso che non era giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non ho, vorrei morire subito. Così non sarà giusto mai. L'alba che verrà, un nuovo amore non ha. frasi scritte sul telefono. Siamo noi la vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile. Cosa ne farò? Le rileggerò per poi pensare che di te solo un messaggio resterà, ma la verità è solo una ferita dentro l'anima che si riaprirà tutte le volte che i pensieri danno scene irripetibili. La tua bugia racconterai, parlando con gli amici tuoi, magari per gioco sopra la mia storia riderai delle mie sere stupide dove fingevi un brivido. Con te ho speso tutta la mia età. Cosa ne farò di quelle frasi scritte sul telefono? Siamo noi la vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile. Cosa ne farò? Le rileggerò per poi pensare. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Lidia. Prego. Sì, allora stavo dicendo della chiusura del banco locale degli ebrei a Conegliano nel 1548 e ovviamente le famiglie ebraiche continuarono a vivere, oltre che spostandosi negli altri feudi per continuare l'attività di feneratori, vissero però anche grazie ad altre attività come la vendita dei panni usati, ma anche la concia o la gestione di botteghe di vario genere, per esempio panetterie, calzolerie, eccetera. E più tardi anche con l'industria della seta. Infatti la lavorazione della seta, non tutti magari sanno, che fu introdotta proprio dagli ebrei alla fine del 500 e poi continuò per tutto il 600. Io ad esempio ho tradotto l'epitafio di un defunto di nome Avram Grassini ed è documentato che questo Abramo nel 1697 ebbe la licenza di essiccare bozzoli, filare la seta. Sì, ebbe appunto questa licenza dal podestà e capitano di Conegliano, Giulio Grimani, e poi comunque per tutto il 700 abbiamo imprese di questo tipo e vi erano anche impiegati parecchi operai cristiani. Poi nei decenni successivi alla chiusura del banco giunsero in città nuove famiglie, proprio come quella dei Grassini, quindi a dimostrazione che a Conegliano la comunità godeva comunque di una certa libertà e tranquillità. E anche di stima, perché? Sì, diciamo che una corrente di odio c'è sempre forse stata, ma come... c'è anche sì, i nostri... come diversa etnia e cose di questo tipo. Esatto, il foresto tanto è sempre più ebreo in questo caso, esatto. Fa sempre un po' paura, è sempre un po' visto con difficoltà, ecco, accettato con difficoltà. Un corpo estraneo, diciamo, esatto, nella società. Comunque nel 400 la piccola comunità ebraica sembra ben integrata nel tessuto sociale. Infatti risultano, ad esempio, leggevo in un testo molto interessante, che risultavano presenti ospiti cristiani ad un importante matrimonio in casa dell'ebreo Simone, che dà in sposa la figlia, e questo, diciamo, siamo alla fine del 400. Già alla fine del 300 la Serenissima aveva imposto una serie di obblighi e divieti, ad esempio il segno distintivo, che doveva essere una specie di O gialla sulle vesti, o il divieto di possedere beni stabili, cioè proprio il divieto dei beni immobili, ecco, della proprietà di beni immobili. Poi c'erano i divieti di avere rapporti con donne cristiane, ma anche di tenere presso di sé dei servitori cristiani. Mamma mia, ma quanti divieti! Esatto, poi c'era il divieto di assistere a processioni religiose cristiane. Beh, questo capisco, ma... E poi queste regole da Venezia poi si estesero proprio alla terraferma. Diciamo che nel 400 cominciano anche le restrizioni per quanto riguarda il commercio. Diciamo che comunque a Conegliano non furono mai espulsi gli ebrei, anche se nel 500 vi furono vari tentativi di espulsione. Di espulsione, appunto, ad esempio nel 1511, nel 1560, e comunque diciamo anche e soprattutto dopo la chiusura del banco. Il Senato veneziano negò comunque il permesso di espulsione. Perché c'era anche un bisogno economico effettivamente di questa presenza. Poi ogni tanto venivano rispolverate vecchie normative, ad esempio sempre agli inizi del 500 c'era una normativa che prevedeva di poter isolare in un luogo riservato gli ebrei e di non farli più risiedere, si nomina una calcazzon, di cui l'ubicazione non è nota, proprio perché dalla finestra questi ebrei potevano osservare i momenti della vita religiosa cristiana, quindi c'era questa normativa di volerli isolare. Sì, insomma. Sì, ma proprio... Poi ecco, soprattutto sempre verso la fine del 500, quando dopo la chiusura del banco gli ebrei cominciano nuove attività artigianali, e questo... diciamo che le scuole artigiane di artigiani dei mestieri temono la concorrenza degli ebrei e quindi intentano varie cause contro di essi, per esempio la scuola dei Calegari come conseguenza, cioè, intenta delle cause contro gli ebrei, e nel 1566 vi è una delibera che esclude loro la possibilità di praticare qualsiasi forma di artigianato. Insomma, era proprio... Sì, in altri tempi, siccome gli ebrei avevano cominciato a commerciare vini e biade, ecco, anche qui poi c'è un divieto nei loro confronti per questo tipo di commercio. E non a caso... alla fine del 500 gli ebrei chiesero di portare a Conegliano l'arte del filatorio, della seda, come dicevo, sono stati proprio loro ad introdurre questa attività. Poi sempre alla fine del 500 vi furono anche episodi di violenza, diciamo, però erano più legati alla normale delinquenza di quel periodo, non tanto da un evidente odio verso gli ebrei. E c'è il caso di un ebreo ucciso, di un altro preso a bastonate, però sono casi singoli e limitati, diciamo. Sì, però erano tanto perseguitati tra una cosa e l'altra. Sì, diciamo che non avevano una vita facile, certo. Ecco. E poi ecco, ci sono anche casi di calunnia, e lo scopo di queste calunnie nei confronti degli ebrei era più che altro aveva come scopo di azzerare i debiti. Cioè, ad esempio, una donna denuncia un ebreo per violenza e poi si scopre che il marito di questa donna era debitore verso questo ebreo, e quindi con la denuncia speravano di vedersi azzerare, diciamo, il debito. Ecco. Non cambia niente, proprio. No, non cambia niente, ecco. Stavo pensando. Ecco. Non si sa con precisione all'inizio dove gli ebrei abitassero, anche se è ipotizzabile che abitassero per lo più fuori della cinta muraria, nella zona vicino al Monticano, dove una volta c'erano Borgo Vecchio e Borgo Allocco. E come si diceva, gli ebrei non potevano avere la proprietà di beni immobili, e non era facile per loro trovare qualcuno disposto ad affittare la casa a degli stranieri, appunto, ebrei. Mamma mia. Però col passare del tempo... La loro presenza in città aumenta e vi è un avvicinamento degli ebrei al centro della città. Infatti nei primi del 600 abbiamo ebrei residenti anche in Contrada Grande, che è la via 20 settembre di oggi, e proprio tra le case dei nobili coneglianesi. E poi gravi restrizioni arrivarono qui come altrove intorno alla metà del 600. Nel 1637 la Serenissima ordina con decreto la costituzione di un ghetto nelle contrade del Siletto e del Refosso. L'ordine all'epoca non era evidentemente tanto tassativo, ma anche perché vi è il problema di trovare case nella zona stabilita, come zona coatta. E infatti vi trovano posto in quel periodo 10 famiglie, e altre continuano a risiedere in altre contrade, evidentemente. Beh, sì. E nel 1675 invece una nuova disposizione obbliga tutti gli ebrei a lasciare questo primo ghetto per trasferirsi in un secondo ghetto presso il torrente Ruio, nella contrada detta appunto del Ruio, che è l'attuale via Caronelli. Ho capito. Che è sempre abbastanza centrale. Dovevano sempre spostarsi queste povere creature. Sì, ripeto, nonostante questo a Conegliano si trovavano bene, ecco, rispetto ad altre situazioni, per esempio in Friuli o anche a Trento, ecco, per citare una città, cioè subirono veramente delle persecuzioni tremende. Ecco, gli ebrei furono parificati agli altri cittadini dopo la caduta della Serenissima con l'arrivo dei francesi di Napoleone. Infatti furono i francesi a abolire i ghetti e furono concessi agli ebrei tutti i diritti civili. Primo fra tutti quello anche di proprietà. Ecco, parlando poi della comunità, posso anche dire che il massimo demografico, forse ne accennavo prima, si ha a Conegliano nella seconda metà del Settecento, si parla di 79 ebrei residenti. Insomma. Ci sono poi vari censimenti, ad esempio nel 1752 i residenti nel ghetto furono 58, suddivisi in 12 famiglie. Poi tra il 1766 e il 1770 la popolazione raggiunse 69 unità. Ecco, invece nel XIX secolo il numero di ebrei a Conegliano cominciò a diminuire, ma in parte a causa del fenomeno della emigrazione interna, cioè dai piccoli centri verso i centri maggiori, quindi da Conegliano, Ceneda, ad esempio, verso Venezia o Mantova o Ferrara o Milano. I centri più grandi, insomma, ecco. Esatto, perché anche il fatto di stare uniti era un modo per rafforzare la comunità stessa, quindi perché l'unione, diciamo, il riunirsi in una comunità grande permetteva loro di avere, oggi si direbbe, più servizi, ecco. Sì, anche comunque maggior... erano più tutelati dal punto di vista culturale, religioso ed economico anche. Sì, sì. Ecco, poi appunto nell'Ottocento, ad esempio, il censimento del 1804 riscontrò solo 25 ebrei, e nel 1820 si parla di 3 famiglie presenti a Conegliano. Tutti via, tutti emigrati. Sì. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1919, risultavano a Conegliano poche famiglie ebraiche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale forse un'unica famiglia, ecco, questo leggevo su un testo. Sì, sì, del resto. Infatti, allora, già nel 1930, in seguito al riassetto delle comunità israelitiche italiane, sia il centro di Conegliano che quello di Vittorio Veneto furono aggregati infatti alla comunità di Venezia. Poi ricordo anche le leggi razziali del 38, quindi nuove persecuzioni, divieti, la revoca di licenze di commercio, il divieto di svolgere attività. Ecco, tutto ciò rese la vita degli ebrei sempre più precaria e difficile. E dopo l'8 settembre 43 la situazione divenne drammatica con la deportazione. Rastrellamenti, eccetera. Ai campi di sterminio. Disastro. Ecco, a Conegliano i primi ebrei furono arrestati agli inizi dell'ottobre del 44. Erano persone non residenti, erano ebrei arrivati a Conegliano per sfuggire all'arresto ed erano state persone che venivano aiutate da cittadini semplici che li nascondevano in case private. E poi c'è anche l'esempio di rifugiati nella clinica del professor De Gironcoli, clinica che, sì, che c'è ancora sta clinica, oggi, sì. E l'ospedale De Gironcoli, quindi è noto, insomma. L'unica ebrea deportata residente in Piazza Cima a Conegliano si chiamava Maria Sara Rosenthal E nel 43 era stata accolta in casa Fenzi, allora, anche questo è un nome, nome nobile, conosciuto. Era stata accolta sotto false generalità, ma poi fu scoperta e spedita, si pensa, verso la risiera di San Sabba prima e Auschwitz poi. Sì. Ecco, Lidia, si riposi un pochino. Perfetto. Che noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone. Perfetto, grazie. Allora, il 30 marzo è caduto l'anniversario della morte del nostro Franco Califano e adesso ci ascoltiamo una delle sue canzoni, Io per le strade di quartiere. Io che andavo per le strade di quartiere, penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto, mille corpi nel suo cuore, io che ormai mi stavo già lasciando andare, io di notte in giro in rete disperati, io che ho sempre riso degli innamorati. Adesso ci sei tu, qui con me, ed io non rido ma al contrario vivo te. Ora che ci sei tu, che mi potevano far male, io a vivere ma senza respirare, io con tanto di passato da scordare, io un uomo nuovo tutto da scoprire. Adesso ci... Eccoci di nuovo in studio con la signora Lidia per un'altra tranche di queste rivelazioni. Eccomi. E a questo punto introdurrei l'argomento del cimitero. Benissimo. Ecco, infatti fin dal 1429 nei patti stipulati tra Conegliano e un prestatore di denaro, un tale Anselmo, appare in questi patti il diritto di avere un luogo per la sepoltura, quindi di un cimitero. Si presume che questo primo cimitero fosse situato fuori delle mura del castello, nel versante nord, nell'attuale zona di Via dei Pascoli, ma diciamo che non sono stati ritrovati resti o documenti più precisi. Ad ogni modo, ecco, volevo ribadire che agli ebrei di solito non era concessa la proprietà di beni immobili, sì, sì, se non proprio quello per l'uso cimiteriale. E poi spiegherò anche il perché. Sì. È una condizione, è una questione fondamentale per gli ebrei quello di poter possedere il terreno per le proprie sepolture. Infatti nelle condotte di cui parlavo prima si nomina proprio questo diritto al luogo di sepoltura. Abbiamo un documento della fine del 400 in cui si dice che Simone d'Alemagna cede a sua figlia 4 passi del suo orto. Ecco, per cui si deduce che questa donazione, cioè di quest'orto, quest'orto vada interpretato come di una parte di cimitero, probabilmente un piccolo cimitero privato ad uso di quella famiglia di feneratori. Di certo comunque abbiamo che dalla metà del XVI secolo si cominciò ad utilizzare un nuovo cimitero nella località chiamata Col Cabalan, che oggi è visitabile ed è accessibile da via Gorizia, ed è il cimitero nel quale io ho trovato le lapidi da tradurre esatto, ed è un cimitero, uso il termine bellissimo, ma ovviamente come lo può essere un luogo storico da visitare. Ecco, questo terreno fu acquistato dagli ebrei nel 1546 e ampliato ripetutamente. Ecco, l'acquisto del terreno, come dicevo, per uso cimitero è una questione importantissima ed è anche l'eccezione che conferma la regola. Infatti abbiamo detto che gli ebrei non hanno diritto alla proprietà di beni immobili. Sì. Tuttavia, per quanto riguarda il terreno cimiteriale, gli ebrei pretendono in qualche maniera di essere proprietari del terreno. Ciò non è un fatto casuale, ma si ricollega a quanto riportato nella Bibbia. In particolare in Genesi, l'intero capitolo 23 racconta di Abramo che seppellisce Sara, sua moglie, nel campo di Macpela, ed è questo campo è diventato sua proprietà sepolcrale. Ho capito. Infatti Abramo insiste con il proprietario del campo, Efron, proprio per dargli il prezzo del campo, perché gli ittiti, di cui appunto era membro Efron, erano disposti a dare un sepolcro gratuitamente ad Abramo. Non poteva essere, giusto? E invece lui pretende proprio di pagare, e poi si accorda con Efron, e paga questi 400 sicli d'argento, che sono circa 5 kg d'argento. Però... E così il campo di Efron, che si trovava in Macpela di fronte a Mamre, che è Hebron, l'attuale Hebron, divenne proprietà di Abramo nel paese di Canaan, cioè nella terra che Dio gli aveva promesso. E da qui sembra appunto arrivare tutta la tradizione di questo acquisto dei terreni cimiteriali. Ma il cimitero è grande? Allora, il cimitero di via Cabalan è una collinetta, diciamo, che è abbastanza grande. Come numero, allora, le lapidi trovate censite durante i lavori di recupero che si sono svolti tra gli anni tra il 1980 e il 1990, sono le lapidi visibili sopra il terreno, sono 130. Ah, ecco. Beh, insomma, non tantissimo. No, però come terreno è un bel terreno, nel senso è il cocuzzolo, diciamo così, di una collinetta. Sì, sì, hanno un posto bello grande, insomma. Sì, sì, non è piccolo, insomma, e anche perché ha molto spazio, cioè non sono fitte, nel senso che le pietre sono dislocate nella parte più alta, le pietre più antiche nella parte sottostante, le più recenti, ma ci sono molti spazi, infatti si può passeggiare tranquillamente in questo giardino degli ebrei. Ecco, ho capito, così. Cosa sono i loculi in sostanza? No, sono state proprio recuperate le pietre, ho capito. Le steli e, con le iscrizioni. I corpi, come richiesto dalla comunità ebraica, ammesso che siano stati ritrovati, dovevano rimanere dove erano, cioè non sono stati toccati, e c'è un motivo per questo, perché in pratica per gli ebrei, cioè la religione ebraica vieta la riesumazione, che è ammessa soltanto in un caso, e cioè se è fatta allo scopo di portare il defunto a Gerusalemme, sul Monte Sion. Solo per quel motivo. Sì, per cui i sepolcri diventano per gli ebrei intoccabili e perenni, oltre che il luogo della memoria collettiva. Che sia per questo che l'acquisto, diciamo, del terreno cimiteriale fosse così importante. Esatto, esatto, perché lì venivano sepolti i corpi e lì dovevano rimanere. Ecco. Infatti durante i lavori di recupero, mi è stato detto, sono state sollevate soltanto queste pietre, queste lapidi con le iscrizioni, e lasciando tutto com'era sotto, ecco. Mm-hmm. E Poi ecco, riguardo di pietra sepolcrale e di Bibbia, ecco la prima menzione di pietra sepolcrale, che in ebraico fa Matzevet Kevurah, nella Bibbia si ha anche in questo caso nella Genesi, al capitolo 35, infatti si dice che Rachele, si parla di Rachele, che morì e fu sepolta lungo la strada verso Betlemme, e Giacobbe resse sulla sua tomba una stele. E continua il versetto che questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi. Penso. Ecco, volevo specificare questa cosa della Matzevet Kevurah, perché tutte o quasi tutte le pietre sepolcrali ebraiche hanno all'inizio del testo o sul lato superiore della pietra, o per esteso o come abbreviazione, hanno proprio la dicitura Matzevet Kevurah. E che cosa vuol dire? Vuol dire proprio pietra o stele della sepolcrale. Ho capito. Quindi proprio pietra della tomba. Ho capito. O stele della tomba, ecco, sì, in italiano possiamo tradurla in vari modi. Sì. E quindi ecco, ribadiamo appunto il concetto che il cimitero è un luogo strettamente collegato con la Bibbia per gli ebrei. E beh, immagino, perché sì. Ecco, tornando al cimitero, ecco le lapidi più antiche, che risalgono appunto alla seconda metà del Cinquecento, sono difficilmente o parzialmente leggibili, e mentre la stele più recente, tra quelle ritrovate nel cimitero appunto di Kol Kabalan, è del defunto Kalimau Fuchs, è del 1882. Ma questa è la più recente? È la più recente. Poi nel 1886 divenne attivo il nuovo cimitero cattolico di San Giuseppe, che è il cimitero comunale di Conegliano, sì, sì, odierno, sì. E lì veniva sistemata una sezione isolata ovviamente dal resto del cimitero, cioè una zona destinata esclusivamente alle nuove sepolture ebraiche, e lì mi pare che ci siano circa 30 defunti sepolti. L'hanno fatta isolata, ma l'hanno fatto nel cimitero. Sì, sì, hanno ovviamente assegnato una zona, sì, anche lì volendo approfondire, ci sono state un sacco di questioni per costruire, perché il muro non doveva essere combaciare. Sì, anche lì insomma sarebbe, anzi c'è gente sicuramente che ha approfondito questi studi, ecco, io purtroppo non ne so tanto. E, ecco, dicevo che sono circa 130 le lapidi trovate, e le più antiche conservano gli emblemi di famiglia e le iscrizioni sono in ebraico. Le più recenti sono lapidi con epitafi bilingui, o a volte con l'ebraico inciso nella parte anteriore e l'italiano nella parte posteriore della pietra. Lei la conosce bene la lingua ebraica? Beh, dire che conoscerla bene è un po' difficile, nel senso, io mi sono laureata in lingua ebraica, nel senso, come materia principale, sì, sì, del, sì, mio piano di studio. La lingua ebraica è l'Yiddish o è un'altra lingua? No, l'Yiddish è un'altra lingua, l'Yiddish è la lingua ebraica mescolata al tedesco, che veniva parlato nei ghetti dell'Europa orientale, mi pare. Sì, sì, nord orientale, quindi Germania, Polonia e Russia. Esatto. Veniva usato questo dialetto, chiamiamolo così, ma è a tutti gli effetti una lingua, questo Yiddish, che è un miscuglio tra ebraico e tedesco. Tedesco, sì. Ecco, quindi sì, sono due cose diverse. Infatti quando, qui aprirei una parentesi lunghissima, comunque quando agli inizi del Novecento i sionisti parlavano appunto di far rinascere questo Stato di Israele, esatto, e di quale lingua scegliere come lingua ufficiale di questo nuovo Stato, si sono contrapposte due correnti, la corrente di quelli che volevano l'Yiddish perché era il più conosciuto dalla maggioranza degli ebrei, e invece quelli che volevano la lingua ebraica, quindi la lingua della Bibbia, sì, sì, che però nel frattempo era una lingua morta, quindi la lingua ebraica è l'unica lingua morta e resuscitata, ecco, diciamo così. E ovviamente vinse questa corrente, l'ebraico è diventata la lingua, ovviamente con tutti i neologismi, con tutte le nuove necessità che una lingua moderna richiedeva, perché sì, ovviamente sì, nella Bibbia non si trovano parole come computer o come sì, sì, telefono o cose certo, del genere. Bene Lidia, ci riposiamo un momentino e sì, ci ascoltiamo un'altra canzone. Perfetto. Allora, ci ascolteremo Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più. una persona no sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Boschi per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridervi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa? Eccoti di nuovo con la nostra Lidia e siamo agli ultimi 10 minuti circa. Va bene, allora a questo punto vorrei entrare proprio nel merito dell'anima della mia tesi. Benissimo, bene, benissimo. Bene. E cioè la valorizzazione, il tentativo di valorizzare questi, come sono stati definiti, manoscritti litici, cioè manoscritti di pietra, sì. Partendo proprio dal titolo della mia tesi, Bet Hahim, ecco, sì. Che significa... È il termine ebraico con cui si indica semplicemente il cimitero, che noi cerchiamo nel dizionario, ma letteralmente, cioè tradotto parola per parola, significa la casa della vita. Ah, che bello. O come ho tradotto io, perché ho preferito tradurla così, il mio professore, il mio relatore è stato d'accordo, la casa dei viventi. Bellissimo. Perché sì, bellissima veramente, perché mi dava proprio il senso di, anche del mio stesso lavoro, cioè sì. Di quello che volevo fare io. Infatti attraverso la traduzione di testi, ovviamente di non di tutte ma di alcune delle lapidi esistenti, l'osservazione delle decorazioni, degli stemmi dove esistenti e l'analisi degli epitaffi che voglio sottolineare rappresentano un vero e proprio genere letterario, sono infatti spesso veri poemi con giochi di rime e metri. E ho tentato quindi di valorizzare questi documenti storici, ecco, perché per me il cimitero è sempre stato un'antologia che racconta piccole e grandi vicende vissute. Sì, e la pietra sepolcrale, nel caso degli ebrei, è spesso l'unica traccia rimasta. Le lapidi rappresentano quindi un legame tra chi vive e chi ha terminato la propria esistenza, ma soprattutto un documento storico che ci invita a non dimenticare il nostro passato e le nostre tradizioni. Ecco, quindi diciamo che io, va bene, la tesi, ho presentato gli epitaffi con la riproduzione digitale della lapide, l'edizione del testo in ebraico e poi la traduzione in italiano. Ecco, quello sarebbe bello sentire. E poi, sì, al limite dopo, se mi rimane un po' di tempo, potrei anche leggere qualche verso, sì. o la traduzione che ne ho fatto, insomma. Sì, sì. E quando è stato possibile trovarle anche alcune notizie biografiche sui defunti. Ecco, i defunti dei quali ho potuto tradurre le lapidi portano i nomi di famiglie importanti, ad esempio Conian e Conegliano, Grassini, Luzzato, Schenazzi, Pinkerle, Motta, ecco, per fare Pinkerle, Moravia. Ecco, le pietre più antiche con il testo leggibile, quelle quindi che sono riuscite a tradurre, risalgono agli inizi del 600, anche se dicevo che le più antiche sono della metà del 500. Ecco, le pietre più antiche mostrano tutti lo stemma di famiglia e a riguardo vorrei dire che i primi stemmi furono probabilmente ispirati proprio dagli emblemi delle 12 tribù bibliche, quindi Giuda, Beniamino, sì, sì, sì. Asher, eccetera. E l'uso di fregiarsi di uno stemma cominciò poi a diffondersi fra gli ebrei economicamente più potenti fin dal tardo Medioevo. Era un modo per distinguere famiglia da famiglia e di porre un simbolo di proprietà sui beni. Era praticamente un'auto-identificazione dell'elite mercantile. Tra l'altro l'azione della Controriforma prese di mira anche l'uso degli emblemi da parte dell'elite ebraica e ad un certo punto ne viene vietato l'uso sulle lapidi. Comunque questi stemmi incisi sulle lapidi diventarono anche un modo poi per identificare il tipo di mete spirituali e culturali della famiglia. Ecco, gli stemmi vengono definiti di solito in due modi: arma parlante o arma simbolica. Ecco, come arma parlante posso fare l'esempio del lupo, che è l'emblema, ad esempio, di certe famiglie, è l'antica insegna del clan biblico di Beniamino, e riferita alla famiglia il cognome Lopez, che significa lupo, è chiaramente un'arma parlante. Arma simbolica quando allude ad esempio a qualche episodio biblico, è il caso ad esempio di uno stemma che c'è sempre a Conegliano di Pinkerle, che mostra Giona in bocca alla balena. Ecco, i Pinkerle tra l'altro probabilmente famiglia di Ceneda, perché a questo dimenticavo di dire che a Conegliano sono sepolti molti ebrei cenedesi, perché fino al 1857 a Ceneda gli ebrei non avevano il loro terreno per uso cimiteriale, per cui fino a quell'epoca venivano trasportati a Conegliano. Ecco, vi faccio comunque degli esempi di questi stemmi, ad esempio i Conian, per quanto riguarda la famiglia dei Conian e Conegliano, abbiamo uno scoiattolo che rappresenta l'uomo saggio e prudente, seduto su un cuscino. Lo stemma dei Grassini invece rappresenta una torre merlata posta tra due leoni controrampanti, e il leone è emblema di coraggio, di grandezza, di comando, ed è lo stemma della tribù di Giuda. Il leone, tra l'altro, è insieme alla torre uno dei simboli che appaiono con maggiore frequenza sulle lapidi ebraiche. Poi per il Luzzato abbiamo un gallo che tiene tra le zampe una spiga, una mezzaluna e tre stelle a sei punte. Il gallo indica la capacità di scegliere tra il bene e il male, la luna e le stelle indicano la crescita di questa capacità quando guidata dalla Torah, e la spiga indica le conseguenze, cioè le opere buone che sono la conseguenza di questa capacità. Scusi Lidia, la Torah che cosa sarebbe? La Torah è la Bibbia, è la legge, equivale alla legge. La Bibbia di solito si intendono i primi cinque libri della Bibbia. Pentateuco. Esatto, perfettamente. Ecco, e significa proprio legge, ecco, per gli ebrei. Ecco, poi abbiamo ad esempio un medaglione molto maestoso con un leone che tiene tra le zampe un ramo di palma ed è sulla pietra di una defunta maritata ad un Ashkenazi. Ecco, Ashkenazi è un cognome molto diffuso in Italia perché indicava gli ebrei provenienti dall'Europa centro-orientale, principalmente dalla Germania. E poi negli archivi italiani questo cognome venne spesso tradotto anche con alemanno, teutonico, tedeschi o tedesco. Ecco, tra l'altro un nome antichissimo, perché l'ho visto che è citato anche nella Bibbia in Genesi, e si parla di un Ashkenaz e viene usato come nome proprio in quel caso. Ah, addirittura come nome proprio. Bellissimo. Sì, sì. E poi, ecco, la più antica delle lapidi che ho tradotto io porta il nome di Asher, figlio di Isaac in Conian. Il cognome appare scritto proprio con la preposizione ebraica be, che significa in, ed è quasi ancora un'indicazione del luogo di residenza più che un vero e proprio cognome. Ovviamente Conian è una importantissima famiglia, e ovviamente il cognome di questa famiglia subì nel tempo varie alterazioni, per cui sono attestati i Cunian, i Conian, i Coneian, i Coneglan e Conegliano. Ecco, io Conegliano ho trovato proprio Conian e Conegliano. Due cognomi sì, però sì. Sono sempre membri della stessa famiglia, sì. Solo che in epoche magari diverse. Ecco. Ho capito. Poi, ecco, potrei parlare anche delle caratteristiche degli epitaffi. Sì, che ho l'impressione che però abbiamo solo due o tre minuti massimo. Due o tre minuti. E quindi magari propenderemmo per qualche lettura, diciamo, di magari qualche verso. Ecco, allora, esatto. Potrei leggervi l'epitaffio della lapide di Shemuel Luzzatto. Ecco, noi correggiamo, due minuti circa. Ecco, ecco, quindi devo proprio essere velocissima. Velocissima, sì. Ecco, Shemuel è morto il 14 novembre 1709, un giovedì, e ovviamente l'anno corrisponde all'anno ebraico 5470. Ah sì, lo so che certo, non corrisponde. Perché loro hanno tutto un... Sì, sì, sì. Ma anche qui aprirei una parentesi lunghissima. Sì. E qui... allora, la seconda parte è tra l'altro in poesia, mentre la prima parte è in prosa, quindi la prima parte recita: pietra dell'anziano onorato, timorato di Dio, eccellentissimo signor Shemuel Luzzatto, la sua memoria sia in benedizione. E la seconda parte recita: si è fatto erigere questa pietra sepolcrale l'anziano e illustre Shemuel, è deceduto nell'anno del riscatto della loro anima, il giorno 11 Kislev, il giorno in cui il riscatto è venuto nella vecchiaia. Se la sua polvere è qui, la sua anima è là, è tornata a pascolare tra i gigli e nell'ombra di colui che cavalca il cielo, colui che pone la nostra anima tra i viventi. Assolutamente, assolutamente affascinante. Poesia pura. È poesia, ovviamente le rime esistono nella forma ebraica, perché poi nella traduzione per forza vanno perse. Ascolti Lidia, magari ci possiamo risentire un po' più avanti, sì, eventualmente. Sì, gradiremmo molto, ecco, sì. Con piacere. Intanto noi la ringraziamo, ma purtroppo il tempo è tiranno. Grazie a voi. Grazie mille, grazie tante. E di nuovo shalom. Shalom. A risentirci. Alla prossima. Ecco, ringraziamo la nostra Lidia e ormai siamo arrivati alla fine, vero Antonio? Sì, proprio siamo. Ringraziamo tutti. Ci salutiamo, ringraziamo chi ha avuto la pazienza di ascoltare, anzi penso che sia stata una cosa molto interessante decisamente da ascoltare. E come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.